Live and direct, presidente, big up a tutte le presenze. Yes man, vai Peppe Cirino, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio perire di pura follia. Strane visioni che mi fanno capire di stare dentro una realtà che non dà alcuna sensazione. La mia missione non è chiara ma schiara le geste, la mente non più fresca, obbligo una sosta. Mandami una scossa, un barlume di vero, tracciami un sentiero per un passo positivo. Vita, come da prassi ti rilassi, ti sollazzi, a tutti gli altri disperati lascia avanti. Poi ti ribotta per andare avanti, è chiaro solo che non leggo la mia flotta dentro gli astri. Siamo i commenti nella bocca della gente, presenze di quel niente che comunque è costante. Dover restare amante di quel suono è troppo poco, in una caccia all'oro che per gli altri è solo un gioco. Ma poi chi sono quelli che ti sparano alle spalle, che ti pesano le palle senza neanche toccartele? Io non li vedo, eppure son presenti, vedi, mi annebbiano i sensi e non sono senziniglia. E non mi ripigliano parole di conforto, altro che dare argento sono io che non ho sonno. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia. Mi fermo e penso, ma se avessimo dato tante critiche quante liriche avremmo superato il limite. Ovviamente è soggettivo, scrivo in modo istintivo. Uccido un'altra birra, do pareri, non insino, ma mi insino nei beat. Non faccio hit, ma clip di film di tutti i giorni con svariati contorni. Dimmi quando torni a trovarmi ispirazione. Sono stanco di parlare di visioni di persone, mentre mi muovo che mi sento gli occhi addosso, che ogni tanto mi volto per vedere dove stanno, che magari me li perdo, che mi affeziono col tempo, affetto da quel morbo che peggiora se mi mollano. Presenze e presentano come referenze il sapere di tutti, di abbandoni e di debutti, di dibattiti che vanno da orecchio a un altro orecchio, né smalto né senza, c'è più sangue che in Pinocchio. Neruda confessa di aver vissuto, io comunque mi scuso se non vivo come te. Son disilluso di trovare più spessore, non mi fanno male ma mi danno da pensare. Male, male. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia. Presenze di presenti e passati, fragori di frequenti risultati. Voglio guarire da una malattia, voglio morire di pura follia.